Torniamo a quello che stavamo dicendo, insomma, stavi iniziando a parlare della sentenza di ieri sul caso Cucchi. La sentenza di ieri è la peggiore sentenza possibile, perché riesce a compiere l'operazione più velenosa del mondo. Di fronte all'evidenza della morte di Stefano Cucchi dentro il repartino penitenziario del Pertini, riesce a trasformare un caso di mala polizia, cioè un caso di quell'impasto velenoso tra repressione, tra violenza carceraria, tra abusi giudiziari, su cui torniamo dopo, in un caso di mala sanità. Banalissimo omicidio colposo. L'omicidio colposo è quello che puoi fare se, per esempio, si stacca dalla finestra della radio il condizionatore d'aria e cade e ammassa una vecchietta che attraversa. Quello è un omicidio colposo, è una cosa banalissima, dove te non c'entri niente, non c'entra la tua volontà, non c'entra la cosa, e c'è però questo effetto di una morte, per cui è una morte per colpa. Avresti dovuto accertarti che i ganci del condizionatore funzionassero bene. La stessa cosa è successa con questa sentenza, di cui chiaramente aspettiamo di leggere le motivazioni, però è evidente che tutti i capi d'accusa, che erano piuttosto pesanti, sono stati snobbati dalla Corte, con una lunghissima camera di consiglio, 7 ore e mezza, che fa pensare a un dissidio tra i giurati, forse tra i popolari e i togati. I popolari sono quelli, i cittadini nominati, e i togati invece sono i membri della Corte d'Assise. Però fondamentalmente chi ha visto il processo in questi mesi, in questi 2 anni, pensa che molto probabilmente c'è stato questo dissidio. Ma la storia del processo è proprio una storia strana, nel senso che è stato un processo tutto giocato sulla fortissima tensione tra la parte civile, cioè tra la famiglia Cucchi, e la pubblica accusa, che invece nella stragrande maggioranza, nella quasi totalità degli altri processi, sono sempre due elementi solidali tra loro, nel senso che la pubblica accusa sostiene un'indagine proprio in favore di una parte civile che si sente che si sente vittima di questa situazione. Qui non è successo. Fin dall'inizio tutti gli sforzi della Procura di Roma sono sembrati essere indirizzati a scagionare immediatamente i carabinieri che sono usciti dall'inchiesta, nonostante ci siano alcune zone d'ombra dentro la permanenza di Stefano Cucchi nelle mani dell'arma dei carabinieri, e nonostante ci fossero dei comunicati ufficiali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, cioè dei capi della polizia penitenziaria, che dicevano continuamente: guardate che ci sono altre amministrazioni dello Stato coinvolte. E dal momento che la sanità era già stata coinvolta nell'inchiesta, era evidente che quello fosse un riferimento all'arma dei carabinieri. Ma lì intervenne a gamba tesa la Russa e l'inchiesta fu confezionata in una maniera strabica, così come strabica è stata anche tutta la gestione della perizia. Intanto, fin dal primo momento, io purtroppo ho conosciuto la famiglia Cucchi direttamente nell'obitorio, e fin da quella sera, era la sera di un venerdì, mi sembra il 28 di ottobre, non vorrei dire una fesseria, comunque era una sera molto tardi in obitorio, il primo medico legale fu convinto a non chiedere nemmeno le fotografie dell'autopsia, tant'è che le foto che noi conosciamo di Stefano sono state scattate di nascosto dagli addetti alle pompe funebri. E quindi era un'inchiesta che già era partita molto male, perché l'intento era esattamente quello di trasformarla in un banalissimo caso di mala sanità, cosa che era molto difficile e che è costata molte altre vittime. Una di questi, per esempio, è quel medico di Regina Coeli che vide arrivare Stefano Cucchi in condizioni così gravi da non accettarlo nemmeno a Regina Coeli. Gli fecero la fotosegnalazione e lo spedirono immediatamente al pronto soccorso del Fatebene Fratelli, da dove stranamente Stefano firmò per tornare in carcere, dove passò una notte di inferno prima di essere poi portato al repartino penitenziario del Pertini, dove venne nascosto agli occhi del mondo. Alla sua famiglia vennero rifilate un sacco di cazzate, successero delle cose molto strane dentro quella struttura ospedaliera, e per esempio una lettera autografa di Stefano, che cercava di comunicare con l'esterno, tutto ci fa pensare che lui disperatamente abbia cercato di comunicare con l'esterno, e che fu spedita 3 giorni dopo la sua morte, come risulta dai timbri, fu ricevuta dalla comunità del CEIS e soltanto quasi 4 mesi dopo fu rivelata con delle scuse abbastanza banali, sai, non ce ne eravamo accorti di questa lettera, quando in realtà l'unica cosa che ha aiutato un po' il caso Cucchi è stato il grande clamore mediatico, perché arrivando questa bestialità immediatamente dopo la sentenza Aldrovandi di primo grado, che era stata pronunciata nel luglio, i primi giorni del luglio del 2009, mentre invece stiamo parlando qui di fatti di ottobre del 2009, la risonanza del caso Aldrovandi aveva aiutato sicuramente la famiglia Cucchi a fare quell'operazione di verità e giustizia e di controinchiesta, perché bisogna ricordare questo: tutte le famiglie che si trovano nelle condizioni della famiglia Cucchi sono costrette a fare delle faticosissime e costosissime controinchieste difensive, e in una condizione psicologica che sicuramente è terrificante, perché si tratta nella stragrande maggioranza dei casi di famiglie scagliate sulla scena pubblica, scagliate sulla scena pubblica da una faccenda molto più grande di loro e sicuramente straziante. Sì, in questo caso voglio dire, ha aiutato il caso di Stefano a finire sulla stampa anche, come dire, una famiglia che ha avuto una caparbietà e anche, insomma, una capacità che non è sempre dovuto avere, no? nel farsi anche in qualche modo personaggio pubblico, perché poi diventasse pubblica la storia di Stefano. Sì, farsi personaggio pubblico con una fatica immensa, perché poi in realtà i costi psicologici che pagano queste famiglie sono enormi, spesso anche materiali, anche morali, però i costi psicologici di diventare personaggio pubblico in una vicenda di questo genere sono terrificanti, e si cominciano a notare soprattutto dopo le fasi del processo. Le persone che hanno subito una violenza di questo genere ne portano il segno per tutta la vita, e diciamo la rete di solidarietà che spesso gli si tesse intorno li aiuta soltanto fino a un certo punto, perché poi restano soli con questo strazio indicibile, insomma. Io sì, mi hanno molto colpito alcune dichiarazioni che ho letto stamani sulla stampa di Ilaria Cucchi, la quale chiedeva scusa alla memoria del fratello per averlo trascinato in questo agone aperto dal tribunale, dal cancan della stampa, e lei appunto diceva: l'imputato è diventato Stefano, no? Riecheggiando anche altre forme di processi in cui noi vediamo che spesso gli accusati scompaiono e sulla scena invece ci sono, non so, penso per esempio ai processi per le violenze sulle donne, eccetera, un po' con la stessa dinamica. Esatto, c'è una pietra miliare da questo punto di vista posata dai PM che hanno istruito l'inchiesta sulla Diaz. Loro, iniziando la requisitoria, una requisitoria lunghissima, durò 7 giorni, dissero che processare qualcuno con la divisa è difficile, come un processo per stupro, perché si tende a criminalizzare le vittime, come hai detto te, ed è difficile come processare un capo mafia, perché c'è un'omertà che scatta immediatamente, anche se si chiama spirito di corpo e non omertà. Quindi quello che è successo in questo processo è la stessa cosa: si è tentato in più di un momento di sbattere Stefano Cucchi al posto degli imputati, perché Stefano Cucchi ce l'aveva tutte: era borgadaro, era coatto, era figlio di nessuno da un punto di vista appunto della notorietà politica e sociale, ed era un drogato, cioè era uno finito in prigione nelle more di una legge terrificante come la legge Fini-Giovanardi, per cui l'emergenza sicurezza, il proibizionismo e tutto lo stigma che circonda persone come Stefano hanno contribuito a questa operazione, per cui anche i giornali che apparentemente erano vicini a Ilaria e alla famiglia, poi ogni tanto e anzi molto spesso cercavano di accreditare le tesi per cui chissà come si era fatto quelle ferite, gli avevano menato i suoi amici eccetera, quando in realtà è una storia squallida sin dal principio, perché molto probabilmente Stefano se lo sono bevuti per una confidenza di uno che apparentemente dovrebbe essere suo amico. E le fasi processuali sono state caratterizzate da un PM che ha lavorato in agosto, cosa estremamente rara nel panorama della giustizia italiana, per cercare tracce di fratture antiche di Stefano che risalissero ai primi anni 2000, e una perizia fatta da professori super pagati, non avete idea di quanto costino questo tipo di consulenze, che sono riusciti a non vedere alcune evidentissime fratture che stabiliscono senza ombra di dubbio che Stefano era stato picchiato nel momento del suo affidamento ai carabinieri o alla polizia penitenziaria, e che quel tipo di lesione lo ha portato progressivamente a una paralisi. Stefano non faceva la pipì da alcuni giorni, l'hanno trovato con una vescica piena proprio perché era paralizzato e si è spento, e basta sentire la sua voce al momento del processo, perché fu registrata, per capire che quella è la voce di una persona che non riesce neanche a stare seduta, perché ha un dolore enorme, e le stesse guardie di polizia penitenziaria lo ricordano camminare appoggiandosi al muro e non riuscire neanche a stare seduto bene, doveva appoggiarsi su un fianco perché le conseguenze progressive delle percosse stavano compiendo il loro corso. Vale la pena sottolineare il comportamento scandaloso di alcuni politici che prima hanno fatto a gara per farsi delle foto di gruppo insieme a Ilaria Cucchi, che hanno giurato che non l'avrebbero lasciata sola, che avrebbero seguito il caso, e poi, come per esempio ha fatto il senatore Marino, non si sono neanche volute presentare in tribunale per esporre i risultati di quell'inchiesta parlamentare che fu fatta nella scorsa legislatura proprio sul caso Cucchi, e che comunque si è conclusa con un esito abbastanza velenoso, nel senso che quella commissione sembrò accreditare l'idea che sarebbe bastato un cucchiaino di zucchero per salvare Stefano Cucchi, spianando così la strada all'ipotesi della colpa medica, di quell'omicidio colposo, che è un reato molto molto meno grave del reato di abbandono di incapace, cioè del fatto che Stefano dentro il repartino penitenziario era stato praticamente seppellito vivo in attesa che non potesse più dire niente, in attesa che fosse riconsegnato morto alla sua famiglia. Senti, ieri in tribunale insomma c'erano anche la madre di Federico Aldrovandi, c'era la moglie di Giuseppe Uva, e c'erano insomma anche altre persone che hanno portato solidarietà alla famiglia Cucchi, e purtroppo poi alla fine insomma si è assistito anche a un teatro piuttosto squallido, a quello che abbiamo letto, con invece diciamo persone che accompagnavano le guardie processate. Ieri la mamma di Federico non è potuta venire a Roma perché ha... però in realtà hai reso l'idea, c'erano tante altre madri e sorelle di altri casi, c'era la sorella di Dino Budroni, ucciso con una pistolettata a freddo di un agente di polizia sul raccordo anulare nel luglio del 2011, c'era la sorella di Giuseppe Uva di Varese, che dopo 4 anni ancora sta aspettando che arrivino a interrogare l'unico testimone di quella permanenza in una caserma della polizia, in cui Uva fu probabilmente seviziato fino appunto a dover essere ricoverato nell'ospedale, dove da cui non sarebbe mai più uscito. C'era la sorella del maestro salernitano, Mastro Giovanni, questo processo di una persona uccisa da un TSO che lo ha fatto legare al letto e da quel letto non si sarebbe alzato più, proprio perché le condizioni erano quelle di una persona torturata. C'era un ragazzo di Forlì, Narducci, che è stato pestato da 3 agenti evidentemente molto alterati mentre faceva benzina in una stazione di servizio a Cesena, fu arrestato illegalmente, fu sequestrato dalla polizia, è stato assolto da ogni tipo di accusa, ma la procura di Forlì si rifiuta di indagare i 3 poliziotti che lo torturarono e che lo sequestrarono. Insieme a loro c'era quel piccolo tessuto di compagni che è riuscito ad entrare, perché l'esibizione muscolare e l'ostruzionismo della burocrazia hanno fatto sì che soltanto una 50ina di persone potesse entrare dentro la struttura dell'aula bunker di Re Bibbia. E al momento della sentenza è chiaro che la reazione di alcune persone è stata una reazione di disperazione. E, come avete potuto vedere anche dalle immagini dei Rai News, ci sono stati anche i carabinieri in assetto antisommossa contro 50 persone, per lo più ragazze o donne. C'erano almeno lo stesso numero di carabinieri in assetto antisommossa, e c'erano alcuni funzionari in borghese che hanno avuto un comportamento in alcuni casi abbastanza provocatorio. Io spero che non ci siano ulteriori conseguenze, spero che l'oltraggio di una sentenza così assurda possa placare un attimo la loro rabbia contro la gente normale, contro la gente comune, contro chi cerca verità e giustizia. E la reazione dell'intelligenza collettiva è stata quella di fare oggi pomeriggio a San Lorenzo, in piazza dell'Immacolata, alle 6, un'assemblea pubblica per cercare una maniera di tenere aperto questo spazio pubblico che abbastanza informalmente ma tenacemente, in maniera continua, i movimenti, i centri sociali, le radio, l'informazione non arruolata, not embedded, come quella di Liberazione o come quella di Popoff, che è la quella dove vengono denunciati questo genere di casi, possa restare aperta e possa trovare un modo per continuare una battaglia più generale che provi a ribaltare in questo paese l'emergenza sicurezza, che provi a denunciare le logiche repressive, che provi a collegare questa escalation alle condizioni sempre più drammatiche in cui ci trascina la crisi, a cercare di fare un filo tra l'austerity e la polizia repressiva. Oggi a San Lorenzo, questa sera a San Lorenzo, ci sarà questo primo momento pubblico di riflessione. In tutta Italia esistono molti soggetti che provano a resistere a queste cose, che provano a raccogliere documentazione. Si sta ragionando per esempio con una associazione che si chiama ACAD, Associazione contro gli abusi in divisa, a istituire un numero verde con una rete di avvocati che possa intervenire in tempo reale nel momento in cui si verifichino degli allarmi di questo genere. Ci sono le reti meno invisibili, che sono quel sito dove vengono documentati tutti questi casi e tutte le storie di stragi e di omicidi fascisti che ci sono stati in questo paese. Ci sono le madri per Roma città aperta, Stefania Zuccari e le sue compagne, che hanno preso spunto dalle madri di Plaza de Mayo argentine e continuano a chiedere il ritorno con vita, che continuano a dire che l'unica soluzione è quella di abbracciare le idee dei propri figli. C'è l'associazione Federico Aldrovandi con tutte le storie con cui è entrata in contatto Patrizia Moretti, con cui è entrata in contatto Lino Aldrovandi. Ci sono in Italia tutta una serie di soggetti che, oltre ai soggetti politici e sociali che lo fanno da sempre, si stanno muovendo in questa direzione. Probabilmente questa è la risposta che noi possiamo dare in questo momento: continuare a chiedere l'istituzione di una legge contro la tortura, continuare a chiedere che diventino, che i commissariati e le caserme diventino delle case di vetro, che la polizia venga addestrata diversamente in questo paese, che si esca da una logica di guerra interna, di nemico interno, per quello che riguarda le strategie dell'ordine pubblico. Continueremo a chiedere un codice alfanumerico per identificare immediatamente i poliziotti che agiscano travisati mentre sono in servizio di ordine pubblico. Continueremo a batterci per tutta questa roba qui. Non sarà assolutamente facile. Questa sentenza certamente non aiuta la famiglia Cucchi, ma non aiuta per niente neanche quel tessuto. L'effetto Aldrovandi qui a Roma non si sente, e pare che non si senta neanche in altre città. Ci sono in corso altri processi: c'è il processo Ferrulli a Milano, c'è appunto l'inchiesta su Uva e molte altre storie che faticano ad essere inquadrate in un modo vittorioso, determinante, insomma. Bene, senti, noi ti ringraziamo, se non vuoi aggiungere altro, e rinnoviamo appunto l'appuntamento per questo primo spazio di discussione collettiva per oggi pomeriggio a San Lorenzo alle 18 in Piazzetta dell'Immacolata, dicevi, no? Sì, l'appuntamento è quello che è stato lanciato ieri sera sul tardi. È stata un'intuizione, secondo me, abbastanza importante. Vale la pena di seguirla. Niente, la radio, e noi la seguiremo senza dubbio, e può avere un ottimo ruolo. Grazie, e soprattutto grazie di questo contributo, e che fra l'altro hai fatto, insomma, con evidenti dolori alla sua schiena, quindi grazie. Scusatemi per la prima volta, ma non è che ti devi scusare, è una freccia. Così. Va bene, grazie a tutti, buon ascolto. Ciao, grazie ancora.